di buone, con te gusti pure una festa. Non ci visto d'este veste paesa nei padronali. E la pugestione, fuggio con un melaggio per dire, sa ti dice è arrivato a qua. Sento noi la panna, vicino lo mercato. Già prima mattina, mezzo la cazza qua arrivato. La sera tutto mato, sempre con vicio, sempre con vicio, sempre con vicio. Ehi, c'è bello! Un momento! E senti muore! Già prima mattina senti l'emozione c'è all'aria. Già prima mattina vicio la gente strana. Ci si prepara, ci si incravatta, ci cucina, ci vai a missa. Missa sta iechina, stanno come un sardegna. Non li vedi mai tutto l'anno. Bella mi pare, bella questa mo' entra sto giorno. Quando sta cammino lo scuro non vicio nessuno. A mensa alla festa, li bar stanno a festa. Tante sulle cose belle per la gente che viene a guai. C'è gente che si dispera ormai, curri alla festa. C'è gente de guai, c'è gente de dai. Ragazze che la gente che non sta ferma mai. Allora tutto l'inverno non ha visto nessuno. A mensa alla festa vi tanta gente nuova. Gente che suda cui saluta la Madonna. E dopo uno picchi poi a casa poi ritorna. Ricordi? Ti ricordi come è? Sei moe. Quando nei bagnoni aspettavano tutto l'anno. Curri una festa de dai, poi mena la festa paesana, gente pure ottigiana. Quando sta fuggendo qua te dai che non si ferma mai. Imbracciato con la bagnona, vista gira la trova. Poi mena c'è il momento. Già prima mattina senti l'emozione già all'aria. Già prima mattina vicino la gente strana. Ci si prepara, ci si incravatta, ci cucina, ci vai a missa. Missa sta iechina, stanno come sardegna. Non li vidi mai tutto l'anno.